Il vostro programma comprende oggi la rubrica Eclettica. Bandino è concorso per i seguenti ruoli. Signore e signori, buonasera. Buonasera. James, the comeback to your town, the take your shadows, mistress, from my fertile ground. Never want to cry out, but it's gone on too long. Every song is empty without your friendly tongue. The comeback on his chains, your brother. He rolls into the darkness, and he needs you to be near. Why don't you just tell him what's inside your heart? Let love take over, you know the devil just ain't that smart. Young man. He's an idiot. Comes from upbringing. Parents are probably idiots too. Lorraine, you ever have a kid who acts that way, I'll disown you. How you think it's gonna go? tiro veramente micidiale, quello nel brano All Together Now che ci siamo appena ascoltati da New York City The Ghost Station. Ok, c'è qualche rimando agli Oasis, ma la canzone per me è bellissima. Canzone che ha seguito quella di Thurston Moore, con cui abbiamo aperto la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni, tra le 19 e le 20. Un grande album di canzoni. Poche dissonanze e tanta melodia in questo album solista di Thurston Moore che ci siamo ascoltati con Honest James, nel caso aiutato da Christina Carter. E si prosegue con gli Stati Uniti con Parenthetical Girls, e questo è il nome della formazione che arriva dallo stato di Washington, da Everett per la precisione, che viene pubblicata in Europa dalla Aquarela di Madrid. Parenthetical Girls, che vengono presentati dalla casa discografica in questo modo particolare, con questo particolare invito all'ascolto. Close your eyes and open your legs. Pensare di essere un'incognita. Mi dico alle 4 del mattino davanti ad un caffè scaldato al microonde. E con questa bella frase fatta, saluto il nuovo giorno. Nuovo giorno, poi. Se c'è una cosa che mi deprime, è uscire di casa con il buio. La luce del frigorifero aperto illumina la sacca da viaggio leggera. Andiamo, suoniamo e torniamo. Toccata e fuga. Speriamo di pagarci la benzina, almeno. Alle 4 del mattino faccio cadere le gocciole in una tazza di latte e Sara si starà rigirando nel letto accanto a quel bastardo di Tex. L'uomo che nel 1988 stava per spaccarmi il naso nella neve in mezzo ai pini. Questo era l'incipit di Despero di Gianluca Morozzi. Our soldiers of the king are blind and walking through their dust. They are cutting down the ones who moan, but cannot tell what is just. Take that. Don't say a word. Doc, I don't want to know your name. I don't want to know anything about you. Listen, Doc. Quiet. Doc. Don't Doc, tell me anything. Buddy. Doc, quiet. Gotta help. Quiet. I'm going to read your thoughts. Let's see now. You come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me. You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No. Not a word. Not a word. Not a word now. Quiet. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Do you know what this means? It means that this damn thing doesn't work at all. The ceiling is moving, moving in time, like a ancora spazio per una canzone, c'è ancora spazio per un incipit all'interno di Eclettica, incipit di Gianluca Morozzi, che è l'autore che stiamo leggendo, perlomeno in questo inizio di settimana, poi sicuramente cambieremo andando avanti con i giorni. Però prima di annunciarvi l'ultimo brano della giornata, vi voglio ricordare che vi siete appena ascoltati PJ Harvey con When Under Ether, del suo ultimo, e prima ancora i Moon and Moon, band art rock statunitense di cui ho trasmesso Act 2 Hands of a Man. Si chiude invece con un estratto ancora non passato all'interno di Eclettica dall'ultimo dei The Polyphonic Spree. Sto parlando di We Crawl. We crawl, we live. In quel giorno di maggio, un po' a metà, tra nuvole e sole, c'era questo scrittore appoggiato al bancone. E questo scrittore appoggiato al bancone guardava il suo aperitivo con una smorfia che sembrava voler dire: che è sta roba, mestruo? Io bevevo il mio caffè in silenzio, non troppo in confidenza con questo scrittore alto e dai capelli grigi. E a un certo punto lo scrittore alto e dai capelli grigi si era messo a dire: guarda, a me, scrivere fa schifo. Io avevo sorriso pensando: cazzo dici? Questo era l'incipit di 10 cose che ho fatto, ma che non posso credere di avere fatto, però le ho fatte, di Gianluca Morozzi. I'm telling the truth, Doc, you gotta believe me. Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Eclettica. Stagione numero 14, settimana numero 2, volume numero 1. Indice. Dan Wilson, The State of Samuel. Nano, Black Lips, Richard Swift, Songs of Green Pheasant. Thurston Moore e Christina Carter, The Go Station, Parenthetical Girls, Moon and Moon, PJ Harvey, The Polyphonic Spree. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.